Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it e vi ricordo il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 Ore online. Il blog si chiama Guardie o Ladri. Come sapete parlo di legalità e criminalità organizzata. Lo trovate facilmente anche attraverso un motore di ricerca. Ultima informazione di servizio: per chi non può ascoltare la puntata interamente o comunque soltanto una parte o un giorno perde una puntata, può scaricarle tutte attraverso il sito di Radio 24, www.radio24.it, andare nell'archivio di Un abuso al giorno per argomento e per periodo temporale. Si possono trovare tutti i temi che abbiamo affrontato e ormai da oltre 2 anni sono quasi 500. Allora, un radioascoltatore, Marco Greco, ci ha scritto per raccontarci una vicenda non tra le più drammatiche, perché ce ne sono ben altre quando uno ha a che fare con chi eroga un mutuo, ma comunque abbastanza curiosa e abbastanza, come dire, noiosa, dopo aver stipulato un mutuo con Poste Italiane. A fine 2008 il partner di Poste Italiane era, e suppongo ancora sia, Deutsche Bank. Però nel momento in cui si trova in sede di Rogito, il nostro radioascoltatore Marco Greco trova una sgradita sorpresa. Buongiorno Greco. Sì, buongiorno. E intanto do il buongiorno anche al dottor Angelo Pucacco, che è il responsabile prodotti di finanziamento nella funzione operazioni di Banco Poste di Poste Italiane. Buongiorno dottor Pucacco. Buongiorno a lei, buongiorno anche al signor Greco. Allora, dottor Greco, lei si è trovato, appunto, dicevamo, una spiacevole sorpresa, un errore, uno sbaglio. Può raccontarci di cosa si è trattato? Sì, la vicenda è accaduta circa un anno fa, praticamente il 19 dicembre 2008, in sede di Rogito, con i funzionari di Poste Italiane, che era venuto per portare tutta la documentazione necessaria per poter stipulare l'atto di mutuo. Io chiedo di vederla in maniera preliminare al notaio, perché non avevo potuto nei giorni precedenti osservarla, e mi accorgo che, a differenza di quanto pattuito con l'ufficio postale presso il quale avevo iniziato la mia pratica di mutuo, lo spread, invece di essere 0,85, era un 1%. Quindi, ecco, portale... diciamolo in maniera un po' più volgare: per ogni rata la doveva pagare 20 euro in più. Sì, ecco. Sì, mi era stato detto circa 20 euro, perché poi lo stesso funzionario si è accertato innanzituto dell'errore, presumo presso l'ufficio postale, dopodiché ha tentato di contattare Deutsche Bank e l'ha contattata cercando di sanare la questione quella mattina stessa, ma non è stato possibile. Ecco, ma perché 11 mesi per questa questione? Cioè, intanto le chiedo, la questione è stata sanata innanzitutto? Sì, è stata sanata. Le dico che proprio ieri ho ricevuto il nuovo piano di ammortamento che mi è stato inviato dal dottor Pucacco. Guardi caso, che coincidenza. Radio 24 interviene, Poste Italiane risolve la questione. Ci siamo abituati. 11 mesi, insomma, lei in questi 11 mesi, dopo che lei se ne era accorto dell'errore, Poste Italiane se ne era accorto dell'errore, allora perché tanto tempo per sanarlo dal punto di vista contrattuale, insomma? Guardi, io anche su consiglio del funzionario di Poste ho scritto delle lettere di proteste a 3 indirizzi diversi. Ho ricevuto una risposta, questo a gennaio 2009, ho ricevuto una risposta da dottor Pucacco a febbraio, il quale mi diceva che si stava, diciamo, interessando per risolvere questa questione. Ecco, ma quella data non ho avuto più notizie. Oh, benissimo, cioè malissimo, non benissimo. Allora, non ho avuto più notizie fino a che, casualmente, lei ha mandato una lettera a Radio 24, e miracoli non ne facciamo di sicuro, però insomma, una mera coincidenza. Dottor Pucacco, è stata una coincidenza, vero? Assolutamente sì, io le posso dire. L'immaginavo, La posizione è stata sanata già nel mese di febbraio, quindi alla seconda rata pagata dal dottor Greco. Difatti, sicuramente il dottor Greco ha potuto constatare nella movimentazione del proprio estratto conto la differenza di addebito già a partire dal mese di febbraio. Ecco, aspetti che glielo chiediamo. Lei l'ha notata questa differenza? Guardi, io la differenza l'ho notata non esattamente nel mese di febbraio, nei mesi successivi ho controllato ed effettivamente c'era una differenza rispetto a quanto pattuito in sede di rogito, soltanto che la cifra mi sembrava diversa da quella inizialmente dettomi dal funzionario a cui gli avevo chiesto di capire quanto era la differenza, pur accettando di pagare uno spread diverso. Ecco, quindi Pucacco non mi pare che fosse... Non avendo in mano il piano di ammortamento, non sapevo giudicare se era corretto o meno. Ecco. E mi sono ritornato ad interessare il mio ufficio verso fine luglio, ufficio postale di Bologna presso il quale avevo iniziato la pratica di mutuo, i quali mi hanno detto che avevano tentato di chiarire ma non riuscivano a trovare i canali giusti per intervenire. Ecco, allora Pucacco, siamo alle solite, chi eroga un servizio comunque dice che è tutto a posto e chi lo riceve invece contesta, allora non mi pare che fosse così chiaro. Si è trattato di ingenuità da parte di chi ha erogato il credito di non inoltrare il nuovo piano di ammortamento, di non trasmettere il nuovo piano di ammortamento al cliente. Però io ripeto, la posizione era già stata sanata 10 giorni dopo che io avevo ricevuto la segnalazione dal cliente. Va bene, allora la segnalazione del cliente. Ecco, ma come sanno bene i radioascoltatori che sentono e ascoltano la mia trasmissione, noi prendiamo dei casi singoli, ma perché in realtà poi sappiamo che possono interessare più persone. Allora io sono convinto, sono sicuro, azzardo, ma sarà così, che chissà quante di queste situazioni ci sono in giro per l'Italia con chi eroga del credito. Sai cos'è che mi sconcerta di questa lettera Pucacco? Non è tanto il fatto che voi abbiate sanato l'errore, o meglio diciate di averlo fatto perché a febbraio avevate già messo in rata quello che era stato pattuito, oppure che la colpa è di quello che non ha fatto il piano di ammortamento e l'ha mandato al cliente. A me quello che sconcerta, Pucacco, è che se non si trova di fronte una persona puntigliosa che si va a leggere le carte, che rompe le scatole, che vi contatta lei, voi, così come tutti coloro i quali erano servizi, le cose passano in cavalleria. Le chiedo, Pucacco, ma se non si fosse trovato davanti Greco, Poste Italiane avrebbe rilevato l'errore su questo mutuo e quindi sarebbe stato così cortese da avvertire il cliente di dirgli: caro cliente, sai che c'è? Ci siamo resi conto che tu pagavi di più, non è così. Ebbene, Poste Italiane lo avrebbe fatto? Posso rispondere sicuramente di sì, perché noi inviamo anche la rendicontazione annuale, il cliente la riceverà adesso nel mese di gennaio o febbraio, e quindi in quella fase ci saremmo resi conto della differenza, quindi sicuramente avremmo provveduto a sanarla. Ripeto, un anno di distanza sicuramente. Però nel caso specifico nella sostanza l'abbiamo sanata immediatamente dopo che si era constatato l'errore. Cioè, quindi lei dice: noi siamo così bravi che se qualcuno ci dà qualche soldarello in più, noi siamo così bravi da accorgercene e poi restituirglielo a fine anno o quando vi accorgete dell'errore, così? Certo che sì, assolutamente sì. Benissimo, io non ho motivo di non credere, ovviamente. Ho i miei dubbi, ma i dubbi me li tengo. Lei ha dubbi, Greco? Qualche dubbio mi viene. Io, se devo aggiungere, vorrei segnalare il senso di smarrimento che ho avuto nel contattare le persone di Poste, degli uffici presso il quale poi ho iniziato tutte le mie pratiche, quindi le persone del mio riferimento, i quali non sanno come procedere di fronte ad una situazione che non è più lineare. Ecco. Quando c'è un intoppo, c'è un rimbalzo di responsabilità, sbagliato tizio, sbagliato caio, provi ad andare da un avvocato, cioè questi tipi di risposte mi sembrano un po' improvvisate. Ecco, allora la catena delle responsabilità in questi casi, dottor Pucacco, come funziona? Cioè il senso di smarrimento non è che riguarda soltanto Poste Italiane, cioè riguarda tutti i cittadini che si trovano a dipendere comunque da chi eroga un servizio. Ecco, lei se la sente di dire che di contrastare quello che dice il radioascoltatore, cioè che in realtà la catena di comando da voi è chiara? Sì, assolutamente chiara. Diciamo che nelle attività di post vendita ci può essere qualche diciamo disallineamento, però direi che questo è un caso in cui possiamo testare un'efficacia. Quindi secondo lei questo qui insomma è un caso limite, diciamo? È un caso abbastanza limite. Perché per il resto invece le cose funzionano in maniera abbastanza tranquilla. Direi di sì. Ecco, non avete avuto altre lettere di protesta di questo tipo? Di questo tipo no. Ah, però ovviamente voi avete un, come dire, un ufficio che le tratta queste pratiche. Ma certo che sì. Benissimo. Le segnalazioni dei clienti le trattiamo con la massima attenzione e direi che questa è una riprova che procediamo in questo senso. Guarda, io sono un correntista di Poste Italiane, eh? Meno male. Va bene, allora guardi, io la ringrazio dottor Pucacco per il suo intervento e per averci messo voce e faccia, a volte non è facile, lo ha fatto. Ringrazio il nostro radioascoltatore Greco, in regia Fabio Cantadori e in studio Elisabetta Fusconi, e vi auguro ovviamente una buona giornata. We'll be right back.